voglio sentirvi tutti adesso, eh. Alza il volume, alza il volume. Deriva che produco solo sempre le più scune. Alza il volume, cercando di pulirci da tutto sto lerciume. Alza il volume, tutto quello che so diventerà le tue lacune. Alza il volume, l'unico modo che hai è alzare sto volume. Alza il volume, alza il volume. Savigliano, fammi sentire il tuo volume. Prime da panico, scarico, batterie ricarico. Per fare il monaco mi metto l'abito candido. Flow potente non permette migliorie. Porcherie rimarranno per le nuove progenie. Pazzie, manie, contagio nel pubblico. Che può crede che in sto genere si parli in modo sudicio. Io sono sempre stato in cattivo stato. Vissuto in uno stato, sempre lotta col papato. Ho sangue blu con l'inchiostro che scorre dalla mia penna sul quaderno, poi parole in varie forme. È inutile reppare in modo veloce. Ci si mangiano le sillabe, non danno timbrica alla voce. Però tu fai un po' quello che vuoi. Io mantengo velocità costante come la barra di Arkanoid. Ultima tacca della batteria del lettore. Ultima barra per i saluti dell'autore. Alza il volume, alza sto volume. Le rime che produco sono sempre le più scure. Alza il volume, alza sto volume. Tutto quello che so diventerà le tue lacune. Alza il volume, alza sto volume. Cerchiamo di ripulirci da tutto sto lerciume. Alza il volume, alza sto volume. L'unico modo che hai è alzare sto volume. In realtà non ho ancora finito, tante cose da dire, non ho neppure incominciato. Mi chiedo, parli di donne, ma donne non hai. Vai avanti così e non ne avrai mai. Sai, continui a generalizzare tutto santo giorno. Ti senti over ma continui ad andare a fondo. Riprendo il tempo, dopo un tempo mi riprendo. Poi guardo il tempo e capisco sta piovendo. Cadono le lacrime degli ascoltatori che ascoltano i tuoi pezzi e poi sotto fa gli imitatori. Cloni dello stesso stereotipo che pensano che il rapper va in para col testo etilico. Invece no, guardiamo oltre questi pregiudizi. Ci sono indizi che ti fanno pensare che sti tizi fissi con le proprie idee. Buoni ma con alti e bassi, più delle maree. Alza il volume, alza il volume, alza sto volume. Le rime che produco sono sempre le più scure. Alza il volume, alza sto volume. Tutto quello che so diventerà le tue lacune. Alza il volume, alza sto volume. Cerchiamo di ripulirci da tutto sto lerciume. Alza il volume, alza sto volume. L'unico modo che hai è alzare sto volume.